Donare la vita. Leggo nella Bibbia in 1 Giovanni capitolo 3 versetti 16 a 18. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. A volte, leggendo la Bibbia, ci troviamo di fronte a delle sfide che a prima vista sembrano impossibili. Ad esempio, in questo caso, quando leggo che, come Gesù ha mostrato il suo amore dando la sua vita per noi, anche io dovrei dare la mia vita per i fratelli, rimango piuttosto atterrito. Sarei io in grado di dare la mia vita per un altro? Possibile che Dio mi chieda questo? Leggendo il seguito del brano capisco che dare la nostra vita in questo testo non significa necessariamente morire fisicamente. Sicuramente ci sono stati e ci saranno ancora dei cristiani che si sono trovati in circostanze tali da dare la propria vita in senso letterale al posto di altri. Ma la maggior parte di noi come applicherà questo testo? I versi che seguono sono illuminanti. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Ecco come possiamo dare la nostra vita per gli altri. Possiamo metterci a disposizione degli altri, spendendo noi stessi per supplire ai loro bisogni. Questi bisogni potrebbero essere materiali, e allora sarà necessario donare qualcosa di materiale per fornire aiuto. Ma altre volte i bisogni potrebbero essere di altra natura, potrebbe essere necessario mettersi a disposizione per un aiuto più spirituale, ad esempio offrendo conforto, dedicando del tempo per ascoltare. Potrebbe esserci qualcuno che ha semplicemente bisogno di compagnia. E in quel caso donargli la nostra vita potrebbe voler dire spendere un po' del nostro tempo con loro. Oltre ai beni materiali, ogni credente ha dei doni spirituali ricevuti da Dio, che potrà mettere a disposizione della collettività svolgendo dei servizi. Anche questo è un modo di spendere la propria vita per gli altri. Ci sono sicuramente molti modi di farlo e ognuno di noi si donerà agli altri in base alle proprie caratteristiche. Ciò che è certo è che viviamo in un mondo in cui tutti siamo sempre di fretta, concentrati sui nostri obiettivi e sui nostri bisogni. È essenziale quindi che, seguendo l'esempio di Gesù, mettiamo un po' da parte il nostro egoismo per metterci al servizio del prossimo. Alcuni sentono il bisogno di svolgere opere particolari al servizio del prossimo e ce ne sono sicuramente di utili, ma anche se non fossimo impegnati in opere o servizi specifici, se teniamo gli occhi aperti e siamo disponibili, vedremo quante occasioni abbiamo ogni giorno di mettere in pratica questi principi, anche solo tra le persone che ci sono vicine. Prego che il Signore mi aiuti sempre di più a sviluppare un carattere che si dona agli altri, proprio come ha fatto Gesù. Non voglio amare solo a parole, ma accompagnare le parole con atti tangibili.